Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E benvenuti anche a questa puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro i balloon, che va a indagare ancora una volta sugli eroi che costellarono la redazione del Pioniere di Gianni Rodari. Parliamo di Mario e Luigi Asturani, comunisti, militante ardente lei, più intellettuale lui, lei che ha dato al Pioniere diversi racconti legati alla Resistenza, lui che invece ha lavorato nel Pioniere come illustratore. Morena ha raggiunto Enrico Asturani, figlio di Luisa e Mario, per ricostruire la vicenda dei suoi genitori. E cominciamo da Mario Asturani. Mario Asturani è nato ad Ancona, ma si trasferisce presto a Torino, dove compie tutti i suoi studi. E la cosa interessante di Mario, che è un artista, nel 1923 aderisce al movimento futurista e comincia ad esporre. Mario Asturani frequenta anche l'Istituto Superiore di Arte Decorative e si diploma nel 1927. Apre uno studio a Torino, espone anche a Pesaro in varie gallerie, eccetera, partecipa alla quarta triennale di Monza dedicata alle arti decorative. La parte professionale più interessante di Mario Asturani è il suo rapporto con la manifattura Lenci di Torino di ceramiche e porcellane. Mario Asturani si specializza proprio in ceramica, diventa direttore artistico della Lenci e fino al 64, dal 40 al 64. Comunista, si diceva, viene chiamato da Rodari a collaborare al Pioniere e all'inizio degli anni 50, per 4-5 anni, ogni settimana Mario Asturani produce un pezzo sulle meraviglie della natura con illustrazioni fatte di suo pugno. Mario Asturani sul Pioniere, una rubrica che si intitolava L'avventurosa storia dell'universo. E quindi questo corrisponde al ricordo che ha di suo padre. Certo, ma lui aveva questa concezione, tutti e due erano diventati comunisti perché sfollati, poi andati in montagna, perché eravamo nel Canavese, stavano arrivando in fondovalle i tedeschi, quindi siamo andati in montagna, poi mio padre è partito coi partigiani, direi nel 44, a cavallo nell'inverno tra 44 e 45, e il fatto di aver, diciamo, tra virgolette, conosciuto il popolo, cioè eravamo una famiglia borghese benestante, però di sinistra, cioè mio nonno materno era Augusto Monti, che era stato condannato a 3 anni di galera dal Tribunale Speciale del Fascismo, era di Giustizia e Libertà, professore al liceo di Bobbio, Pavese, Mila, Ginzburg, Paietta e quant'altri. Sì, allora, tra l'altro suo padre era anche amico di Pavese. Era anche amico di Pavese, quindi era di quella banda lì, come sì, dicevano loro. Quindi il fatto di essere nel dopoguerra, sono diventati comunisti, mia madre attivista del partito, cioè proprio faceva i discorsi in piazza anche. Quanto a mio padre, riteneva, cioè noi eravamo anche abbonati oltre all'Unità al Calendario del Popolo, che era una pubblicazione del partito, come dire, di cultura generale. Il Pioniere era la stessa cosa, la cultura generale portata ai ragazzini. E mio padre, che già aveva pubblicato questo libro, Cacciagrossa fra le erbe, che era per i ragazzi, cioè non era un libro di entomologia sapiente, era un libro di avventure andando a caccia di insetti, in cui si spiegava che cos'erano gli insetti, usi, costumi, come funzionavano, come funzionano, in un libro di racconti in qualche modo, di caccia. Nel dopoguerra, per perché ci credeva, sia per arrotondare, ha iniziato questa collaborazione al Pioniere e c'era una doppia pagina, se ricordo bene, settimanale. Io ricordo le pagine di animali, però può pure darsi che ci fossero anche le comete, le stelle. Lui nel viato dopoguerra era anche stato autore di un libro intitolato La Luna, un grande proprio come formato, come fosse un libro d'arte, insomma, in cui aveva argomentato, tra tutte le cose che si potevano dire sulla Luna, aveva previsto che sarebbe stato possibile arrivarci, quindi retrorazzi e queste cose qui, ed era stato sbeffeggiato dal direttore dell'osservatorio astronomico che c'è sulle colline di Torino, che diceva questa è una cosa totalmente impossibile, e quindi ricordo la sua soddisfazione anni dopo, quando invece sulla Luna ci sono arrivati. Ecco, quindi lui faceva queste paginoni molto illustrati, direi soprattutto illustrati, con un testo che stava insieme, dentro impaginato insieme immagini. Sono comunista totalmente fuori moda, sono comunista che sto lingua vuota, totalmente fuori moda, è talmente comunista. E parlo io. Sono comunista totalmente fuori moda, sono comunista che sto lingua vuota, totalmente fuori moda, è talmente comunista. E parlo io. Si tiene 60 anni e tu mo, te ne vorresti andare in pensione. Inventati un suicidio chic e butta giù anche tu l'inflazione. E poi c'è la flessibilità, la nuova moda a tutti ormai nota, che ci divide tutti. Metà. Chi muore fame e chi va in Europa. Se non ti senti bene, occhio al trend, non andrai mica all'ospedale, no. A gravare un doppio spalle la gente. Al loro verre tutto mo fa male. Sì, disoccupato del trend, è meglio piccolo imprenditore. Con partiti in anime con Wind. E manca sorda per l'ascensore. E manca sorda per l'ascensore. Manca sorda per l'ascensore. Io sono comunista totalmente fuori moda. Sono comunista che sto lingua vuota. Talmente fuori moda e talmente comunista. La cosa interessante è che suo padre era autore e illustratore, per cui scriveva anche molto bene e aveva anche un modo di scrivere come diretto ai ragazzi e ai bambini, molto efficace. E poi queste illustrazioni veramente splendide, devo dire, quindi aveva questa doppia capacità. Sì. Lui anche in quell'epoca già aveva fatto tutte le immagini per un libro di osservazioni di chimica, fisica e queste cose qua per i ragazzini forse delle scuole medie, non so che scuole ci fossero all'epoca. E poi l'ultimo lavoro che ha fatto, alcune decine di anni dopo, è di nuovo è stato un libro come perché di osservazioni scientifiche per la Löscher, Chiantore Löscher, nel caso editrice di Torino, per le scuole medie, in cui aveva fatto tutto, cioè tutto, aveva scritto tutto il testo, aveva fatto tutti i disegni tecnici, tutti gli schemi, tutto. Cioè lui era un po', una figura vagamente rinascimentale. Che però era anche tipica dell'epoca, perché oggi ci sono, siamo tutti specializzati in una micro cosa. Esatto. Mentre un tempo che gli intellettuali, artisti, si esprimevano questa, in tante. Con questa visione finalizzata a far del bene all'umanità, cioè servire il popolo, come si avrebbero detto i cinesi anni dopo. Mentre le ceramiche Lenzi, che lui da una vita era il direttore artistico di questa fabbrica, pur essendo spesso dei veri capolavori d'arte, lui le chiamava quegli stupidi ninnoli, cioè perché erano cose per la buona borghesia. Sì, esatto. Erano le manifatture che producevano chiaramente già in serie e però su dei progetti, disegni e prototipi che erano erano delle serie talmente piccole, ridotte, che è difficile dirle piccole serie. Che erano tra 50 e 100 pezzi, come ho capito. Erano dei multipli. Sì. Vabbè, e questo era mio padre. Tanto che nel 1953, appena morto Stalin, avevano invitato mia madre, che era la più passionaria dei due, quella che si esponeva appunto andando a fare i discorsi, anche i discorsi in piazza, era stata invitata a una specie di viaggio istruttivo e di propaganda in URSS. Lei, essendo insegnante a una scuola media, non poteva mollare la scuola per andare a fare il viaggio, e quindi è partito mio padre, che aveva, come dire, un rapporto lavorativo meno costringente. Mio padre era stato compagno di banco di Pavese, ma il primo anno al, come dire, che si chiamava ginnasio. Poi mio padre è stato bocciato alla quarta ginnasio per il solo latino, perché aveva 10 in scienze, 10 in matematica, e le altre materie andavano bene. Questo professore, che mio padre ricorda sempre, che è poi stato trovato impiccato con la cravatta nei cessi del ginnasio, quindi sostiene che era qualcosa che non girava giusto, l'ha bocciato per il solo latino. Allora mio padre era andato in collegio a Monza, essendosi iscritto al primo anno, era appena stata fondata la scuola di arti applicate, Regia Scuola di Arti Applicate di Monza, sì, che era una specie di Wiener Werkstatt italiana. E lì ha iniziato praticamente la sua passione. E lì ha iniziato le cose di artista. Di arte. Con questi della banda, delle classi, del liceo di mio nonno, partecipava ma da esterno. Poi ha avuto questa esperienza e di entomologo e di artista, che spesso ha fatto coincidere, per cui Cacciagrossa fra le erbe ha tutta una serie di tavole illustrate, poi aveva scritto Vita delle farfalle con delle altre tavole a tempera assolutamente meravigliose. Queste del pioniere, meno curate, perché una tavola di queste, ad esempio di Vito delle farfalle, ci metteva alcune settimane a fare. Thank you. find yourself a suitable body. You occupy, you feed. Post-migration parameters where culture incubates, where the dial tone originates. How much creature are you? Tiny hands, tiny feet, vulgar, yet often convincing. Spesso nella nostra trasmissione incrociamo i fumetti con le arti diverse, il cinema, la musica, e questa volta lo facciamo col teatro, perché parliamo di questa messa in scena di uno dei personaggi più famosi di Pazienza, Pentotal. Succede con quest'opera rap che si chiama Personale Politico Pentotal. Per noi ne parla il Super Willy della nostra redazione, con Marta Dallavia che ha costruito questa PS e che compare anche in scena. You're so thing. The peculiar result of erotica. Meat slippage dialing up the eruption. Vulgar, yet often convincing. Are you from outer space? Un'opera rap per Andrea Pazienza, Personale Politico Pentotal, opera rap che rende omaggio al grande fumettista e narratore Pazienza, con uno stile particolare. Ho intervistato l'ideatrice, e sarà anche sul palcoscenico, Marta Dallavia, insieme a Omar Faedo, Simone Meneguzzo, Michele Scecli, Alessio Sulis e Roberto Di Fresco. Non leggo gli H alias Kno Oso, che è abbastanza particolare perché sono dei rapper, quindi trovare Andrea Pazienza con il commento in Gramlò, riportando i linguaggi dei primi anni Ottanta, quelli più giovanilistici ripresi da Marta e riportati sul palcoscenico in maniera rap, quindi con una scrittura assolutamente attuale, con questo vocal messaggio abbinato all'edit di un brano che viene reiterato per ritrarre Andrea Pazienza, sicuramente è un'operazione molto molto originale, curiosa, se vogliamo divertente e alternativa per conoscere un grande artista. Io stesso ho contattato Marta per saperne di più. In effetti questa opera rap per Andrea Pazienza indubbiamente incuriosisce. Sentiamo le parole di Marta, quindi, a proposito di Personale Politico Pentotal, opera rap per Andrea Pazienza, con Marta Dallavia, che è al telefono con noi. Buongiorno e bentornata ai microfoni di Radio Città Fujiko. Grazie mille, buongiorno a tutti. Come rendiamo omaggio a questo grande artista? Un'intersezione di espressioni artistiche, quindi insomma un'opera ambiziosa. Di che si tratta? Sì, diciamo che sì, facciamo un omaggio un po' particolare, perché questo è uno spettacolo teatrale che si dedica principalmente alla parola, al lessico, quindi è un po' strano, perché fare un omaggio a un grande fumettista concentrandosi soprattutto sulle parole può risultare bizzarro ma anche un po' provocatorio. Io, come chi ha già visto magari i miei spettacoli, sa che sono molto legati alla parola, e quindi anche in questo caso qui ho provato a concentrarmi scrivendo un testo che si rifacesse proprio alla lingua che Pazienza comunque ha inventato, fatta di slang anni 80, di inglesismi, di parole prese dal dialetto pugliese, e ho cercato di scrivere un testo come se l'avesse scritto lui, diciamo, ispirandomi principalmente alla prima delle avventure straordinarie di Pentotal, che è il primo fumetto che Andrea Pazienza ha pubblicato, quindi intrecciando questa storia anche con fatti politici come il 77, come la bomba a Bologna, come, guarda, lo nomino proprio perché sto parlando con voi, Radio Alice, la vicenda di Radio Alice. In tutto questo mi sono fatta aiutare da dei rapper, perché cercavo degli autori che fossero giovani e che potessero in un certo senso incarnare una sorta di Traumfabrik degli anni zero, diciamo così. Ovviamente loro non si dedicano al disegno, ma si dedicano comunque all'espressione di contenuti che loro sentono molto forti e che trasmettono, esprimono, diciamo, concetti a tempo, e quindi mi sembravano adatti per fare questa tessitura che è beat rock, come posso dire, e cerca di incarnare più uno spirito che un'estetica. Can we get a hand clap or something? The drummer, get funky now. got New York in here, am I right? Where everybody else from in here? Where everybody else from? Jersey in the house? Long Island in the house? Is Brooklyn in the house? Is Brooklyn in the house? Where the Bronx at? Where the Bronx at? Where the Bronx at? Is Uptown in the house? Is Queens in the house? I guess Brooklyn's in the house. E quindi ha inventato un gramlo apposta. Esatto, rileggendo comunque tutta poi l'opera di Pazienza, ma non solo, qui viene nominato Stefano Tamburini, nominato Scozzari, insomma è tutto un concentrato. Ho cercato anch'io di fare, come hanno fatto loro, un concentrato del mondo e condensarlo in episodi che qui narro io insieme a questi giovani. Fitti fatti di Fattanza raccontano di un'eroina fatta di eroina che cerca di disintossicarsi tramite una favola e favoleggiata cura del sonno. Allora, visto che hai fatto uno studio, magari di approfondimento anche sul personaggio, perché resta così attuale? Allora, ma questo guarda è molto interessante. Diciamo che io ho fatto la riflessione che mi interessa di più, che arrivi al pubblico, e quindi colgo l'occasione per dirla. Ovviamente io non faccio documentari, questo non è uno spettacolo biografico su Pazienza e nemmeno un documentario storico sulle vicende studentesche del 77 e oltre. È una riflessione che io faccio su cos'è cambiato nello spirito dei giovani da allora ad oggi, in questi 40 anni che ci separano da quel momento. Quello che io ho pensato sia dove ho messo, diciamo, l'accento, il focus per me, è che prima esisteva un grandissimo senso del collettivo in tutti gli ambiti, politico, sociale, si facevano le cose in gruppo e anche addirittura gli esami, no? All'università, perché questa era la cosa più importante. Ma via via siamo arrivati a una frammentazione di questo collettivo in tantissime solitudini, diciamo, o individualità. Anche a livello musicale, quando ero ragazza io, parliamo ormai di 20 anni fa, era normale avere un gruppo musicale dove c'era il chitarrista, il batterista. Adesso anche la musica è diventata molto individuale e il rap per me rappresenta moltissimo questa cosa. C'è un cantante, diciamo, un rimatore che prende una base e può farlo. E in più i testi e i racconti dei rapper sono molto ego riferiti. Questa cosa qui, che comunque esisteva anche in Pazienza, perché diciamo il fatto di declinare anche se stesso in vari disegni, cioè disegnarsi sempre alterato ma partire sempre da se stessi, esisteva, ma c'era un senso di comunità estremamente più forte. Quindi ho pensato che i rapper incarnino molto bene questo fatto di essere nel mondo, ma comunque essere degli individui molto precisi che comunque ci tengono molto a mettere il loro io davanti a tutto. Marta Dallavia, presente sul palcoscenico e autrice di Personale Politico Pentotal, lancia, insomma, per incuriosire le ascoltatrici e gli ascoltatori, questo messaggio a proposito di rap e di pop. Tu dici una cosa molto interessante, che il rap dice cose che non si possono dire. Sì, ecco, questa è un'altra cosa molto importante. Ci tengo a fare una distinzione. Allora, così come il fumetto di Andrea Pazienza non è Tex, per capirci, i rapper che ho scelto io non sono questi rapper che senti, perché adesso il rap è molto diffuso, è anche molto legato alla musica leggera, no? Perché quasi ogni canzone che sentiamo adesso ha un pezzo parlato al suo interno, se si ascolta normalmente, diciamo, della musica pop. Qui no, qui io sto invece ho cercato dei ragazzi che fossero legati a una vecchia scuola rap, diciamo così, e quindi molto più legati ai contenuti e molto più legati al fatto che il contenuto deve essere un tabù, altrimenti non ha senso. Ho proprio chiesto a loro di fare un lavoro su questo, cioè di scrivere le canzoni che sono state scritte appositamente per lo spettacolo, pensando a qualcosa che in un certo senso fosse provocatorio, proibito o di cui comunque è un po' scomodo parlare. Quindi la droga, per esempio, o anche il sesso, in parte. questo, o la politica trattata in un certo modo, perché ci sono delle cose corrette e cose non corrette. Gli ho chiesto di essere un po' scorretti per cercare di stare in una linea che la nostra Traun Fabric o gli studenti o Radio Alice stessa hanno provato a fare. Un'epoca pre-social a confronto con quella dell'iPhone. E cosa salta fuori da questo paragone? Ma guarda, perché dico, nello spettacolo faccio, dico proprio un piccolo appunto che in verità aprirebbe capitoli lunghissimi. Allora, adesso dico una cosa un po' forte, questo fatto anche dell'eroina, di avere un approccio con questa cosa che poteva essere, come dire, beh, sì, adesso io provo questa cosa perché è una cosa che tutti fanno ed è per stare insieme, è un po', ovviamente, concedimi questo paradosso, trovo che comunque in fondo la rete, il web, sia una sorta di eroina contemporanea, cioè tutti ci sono dentro, non riescono a farne a meno, perché comunque questi stessi ragazzi che lavorano con me non gli puoi togliere il telefono o il collegamento o il profilo Facebook, perché è parte integrante del loro modo di essere connessi con quello che succede. Allora, per assurdo, anche il pentotal che io nomino lì, quindi una sostanza stupefacente che molla i freni inibitori, diventa un modo per sentirsi vivi all'interno del mondo. I'm stuck! I can't remember when transit cops, Spanish D-Train Melody, D-Train Symphony, wake up with a kick and stainless bracelets. Get up, nigga! It's a sweep! You're going to central booking. You have to miss your check. You're just a recidivist. I know. I'm stuck and I can't get up. I'm stuck. Stuck and I can't get up. You know, kind of sticky around the edges. Stuck and I can't get up. Shiny pants. Stuck and I can't get up. Stuck on the bench. Stuck and I can't get up. We stuck. Stuck and I can't get up. Stuck dead. Stuck and I can't get up. Stuck, fool. Stuck and I can't get up. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va mai?